fra poco arriverà. È il momento che aspettavo io da un'eternità. Non riesco ancora a crederci, da me lei verrà. Me l'ha detto sorridendo un'ora fa. Ed ho preparato già fiori freschi sulla tavola che fanno più allegria. Questa volta non è una bugia, a casa ne avverrà. E stasera da quell'altro non andrà. Nella mente sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via. E negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo. Mezzanotte se ne va, e le stelle sul soffitto io le ho spente tutte già. Vado a letto e ripenso che da me lei verrà. Me l'ha detto un giorno tanto tempo fa. Nella mente sempre lei, come un'ossessione lei, che mi accende i sensi e la fantasia. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via. E negli occhi miei che sognano, io la vedo come un angelo, proprio lei che un angelo è. E mi immagino di averla qui, e mi immagino di stringerla fra le mie braccia, di stringerla così. Nella mente solo lei, sulla pelle ancora lei, come un fuoco che non so lavare via. E negli occhi miei che sognano,